Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera parliamo di un libro che ha come titolo Italia, cresci o esci, con tanto di punto esclamativo. Meritocrazia e regole per dare un futuro ai giovani. Quindi un argomento di grande attualità, di grande interesse. Ne parliamo con Luca Dagnese. Buonasera, dottor Dagnese. Buonasera a voi. Luca Dagnese è il coautore di questo libro insieme a Roger Abrava, che abbiamo avuto ospite nella rubrica Incontri alcune settimane fa. Luca Dagnese è stato parte di McKinsey, così come Roger Abrava, ed è amministratore delegato di aziende del settore energia, attualmente presidente di Enel Romania. E hanno fatto, Abrava e Dagnese, questa analisi della situazione italiana, punendo il dito essenzialmente su due temi: il fatto che c'è una crescita che non c'è, scusate il bisticcio, cioè l'Italia soffre di una mancata crescita, di una crescita molto lenta che soprattutto in questo periodo sta diventando recessione, e il secondo tema è quello del merito, il merito che non viene riconosciuto e che quindi è uno degli elementi di base del fatto che non c'è la dinamica sociale che porta alla crescita. È stato un riassunto oggettivo, dottor Dagnese? Direi di sì, sicuramente un punto importante e particolare per noi l'ultimo, cioè il fatto che spesso in Italia tendiamo a vedere il problema del merito e anche del rispetto delle regole da un punto di vista solo morale, cioè che non è giusto avere raccomandazioni, non è giusto infrangere le regole, sarebbe corretto premiare i meritevoli. Quello che ci sfugge troppo spesso è come invece questa assenza di meritocrazia, di rispetto delle regole, di avere le regole giuste, sia un freno drammatico alla crescita anche economica del nostro paese. Ecco, ma da dove nasce questo fatto che l'Italia rispetto ad altri paesi è molto più legata a quella che viene chiamata l'economia di relazione, del piacere reciproco, del faccio un favore a te così tu fai un favore a me, che non allo sviluppo appunto delle competenze, della professionalità? Beh, diciamo, questo tema dell'economia di relazione, l'Italia non è certo l'unica, sono tante le economie, i paesi, in particolare la dimensione del sommerso, che è una cosa che viene quantificata anche dalle organizzazioni internazionali, vede l'Italia purtroppo ai primi posti su questa poco lodevole classifica, superata solo dalla Grecia. Quindi diversi paesi in realtà purtroppo delle economie europee anche ne soffrono, e sono proprio quei paesi in cui si è affermato di meno il modello, diciamo, di libertà economica tipica dei sistemi più avanzati del capitalismo occidentale, in cui in realtà i diversi attori, siano essi persone o aziende, competono nell'ambito di un quadro di regole chiare in cui la competizione è aperta per tutti, tra gli individui, allora la chiamiamo meritocrazia, o tra aziende, allora c'è un giusto sistema di regole sul mercato. Purtroppo in questi paesi invece pesano molto di più i retaggi del passato, molti hanno paura di questo, di questa apertura, ritengono che si viva tutto sommato meglio cercando di arrangiarsi come da noi in Italia, e purtroppo questa situazione non fa che peggiorare l'interesse che anche magari i meritevoli e quelli che potrebbero aver successo sul mercato provano per questo tipo di possibilità, perché non ci si crede. Ecco, ma c'è in fondo un paradosso. C'è in fondo un paradosso nella realtà italiana: il fatto che tutti, diciamo così, sono un po' scontenti di come vanno le cose, di uno Stato inefficiente, di un settore pubblico pletorico, di un complessivo peso appunto dei costi della politica, però nello stesso tempo si è molto refrattari alle riforme, a cambiare le cose, a fare delle riforme strutturali. La propria riforma è molto usata ma poco praticata. Quanto si fanno, ci sono ostacoli di mille tipi per l'attuazione concreta delle riforme. Come mai c'è questo paradosso in Italia? Questo è verissimo, è chiaro che c'è in queste situazioni c'è sempre, le riforme non sono mai diciamo indolori, c'è sempre da pagare un prezzo, sia esso piccolo o grande. Purtroppo la sfiducia che gli italiani spesso hanno nella capacità della società, dello Stato, della stessa politica di portare avanti delle riforme efficaci fa sì che tutti noi tendiamo a vedere il costo di queste riforme come un fatto certo, mentre il beneficio ci sembra lontano, incerto, e quindi preferiamo optare per la soluzione che ci sembra più sicura, che è tenerci i nostri piccoli privilegi e rinunciare alle opportunità di sviluppo. È proprio quello che chiamiamo la mancanza di cultura della crescita. Come ci vedono all'estero con questi nostri difetti? Continuiamo a essere apprezzati? Made in Italy continua a essere una realtà apprezzata, un marchio famoso, ma come ci vedono? L'Italia è considerata uno dei malati d'Europa oppure un paese che comunque ha sempre la capacità in qualche modo di uscirne? Ma spesso purtroppo l'Italia all'estero viene vista anche con un'immagine un po' oleografica, appunto, di paese dove permangono le nostre grandi punti di forza, appunto, che sia il paesaggio, la storia, la cultura, il made in Italy, la moda, questi elementi, ma che per lo più non riescono a trasformare il nostro paese in quella che è un'economia dinamica. Spesso dal punto di vista economico all'estero ci danno un po' per perduti, diciamo così, perché nello scenario mondiale in generale tutta l'Europa pesa sempre meno e l'Italia pesa ancora meno, essendo un'economia che appunto non cresce, quindi tende ad avere un peso inferiore. Credo che il problema non sia tanto come ci vedono all'estero, quanto che noi stessi siamo i primi a non aver fiducia nelle nostre capacità di trasformare questa situazione. Cioè l'Italia non ha una cultura della crescita, eppure la crescita sarebbe essa stessa la soluzione di tanti problemi, incominciare da quelli del debito pubblico, quelli dell'occupazione, quelli dell'avere le risorse per fare anche una vera politica sociale. La crescita è veramente la chiave di volta per la realtà italiana. Sì, anche se è chiaro che non possiamo semplicemente sperare che la crescita venga dall'alto, diciamo, che ci siano delle riforme che ci fanno crescere oppure che possa venire un aiuto dall'Europa o da chissà dove. Dobbiamo essere noi che sappiamo, con una serie di interventi magari mirati, noi in questo libro, come anche nei precedenti, facciamo anche una serie di proposte su come, diciamo, fare degli interventi mirati su alcuni settori della politica, della vita economica, anche della scuola, su come trasformare un po' questa situazione e invertire un po' la rotta, perché non tutti quanti oggi parlano di crescita, purtroppo l'Italia non lo fa da tanti anni, ma oggi è diventato di moda, ma in realtà questa non può venire da fuori, siamo noi che dobbiamo attivarci. Ecco, c'è in questo libro anche un manifesto per i giovani italiani, 8 punti, tra cui per esempio fare tutto il possibile per raggiungere al più presto l'indipendenza economica della famiglia, iniziare a restituire, cioè fare qualcosa di concreto per dare qualcosa alla società, ricercare incessantemente la meritocrazia e il rispetto delle regole. I giovani sono in fondo il nostro futuro, dobbiamo avere fiducia nei giovani, però facciamo poco forse per i giovani, dottor Dagnese. Ma sicuramente l'Italia è un paese che ha investito e investe poco, non tanto in termini di risorse economiche, quanto in termini di attenzione e di qualità, a cominciare dalla scuola, dove abbiamo un sistema scolastico che non premia il merito, ma non tanto negli studenti, soprattutto non premia le scuole migliori, non premia le università migliori, non è orientato a quelli che sono i veri clienti della scuola, che poi sono le famiglie e gli studenti. Quindi da questo punto di vista offre una qualità che a volte è anche buona, ma è fidata all'orgoglio professionale degli insegnanti più che alla volontà di gestire un sistema nell'interesse della collettività, proprio perché la qualità non viene misurata. Le persone, a volte gli studenti, a volte sono contenti di ricevere un buon voto, ma questi voti non sono gli stessi, non hanno lo stesso valore nelle diverse scuole, non c'è un sistema di valutazione oggettiva dei risultati come invece è presente in molti paesi anglosassoni o del nord Europa, sulla base del quale anche premiare le scuole migliori e soprattutto essere sicuri che un ragazzo che esce da un'istituzione scolastica riceve un valore misurato esattamente dal tipo di voto che riceve. Certamente, e poi un ragazzo che esce magari con grande preparazione si trova di fronte a un mercato del lavoro difficile e ha come scelta quella di andare all'estero, cosa in sé positiva se poi riuscisse anche a tornare in Italia. Invece molto spesso, in gran parte, i giovani che vanno all'estero poi ci restano. Questo, diciamo, certamente è un problema, però purtroppo noi stiamo, anche qui secondo me, riusciamo a vedere solo metà del problema, nel senso che far ritornare in Italia la cosiddetta fuga dei cervelli non è tanto un problema di far tornare gli italiani che sono emigrati, quanto di creare in Italia un sistema che attiri i migliori. Poi una volta che lo avremo messo in piedi, torneranno gli italiani, ma arriveranno anche un po' di stranieri. In America nessuno si preoccupa di far ritornare i cervelli, perché vengono i cervelli di tutto il mondo a studiare lì. Questo è indubbiamente un altro obiettivo che dovremmo avere in una società multietnica che abbia anche le risorse per attirare appunto le capacità straniere, per dare dei vantaggi competitivi al nostro paese, che ha all'interno peraltro grandi risorse. Io ringrazio Luca Dagnese, che ha scritto insieme a Roger Abraham il libro Italia, cresci o esci, meritocrazia e regole per dare un futuro ai giovani, edito da Garzanti. Sono 176 pagine per 9,90 euro, un libro che direi bisognerebbe leggere per capire che c'è la possibilità di costruire un futuro di crescita e quindi anche di migliori prospettive per tutto il nostro paese. Grazie dottor Dagnese. Grazie a voi e buona serata a tutti. Così come ringrazio Matteo Comes in regia e Luca Cremonese in redazione, l'appuntamento con Economia in Pagina è per sabato prossimo.